Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. L'Italia si prepara alla grande nevicata, al momento disagi soprattutto per il traffico ferroviario, 42 morti per il freddo in Polonia. Disordine e scontri in Iran ai funerali dell'ayatollah dissidente Montazeri. Ritrovato il cartello rubato ad Auschwitz e il Papa si dice sconvolto per la visita al memoriale sull'olocausto dello Yad Vashem. Coppa del mondo di sci in Alta Badia, gli azzurri cercano il bis nello slalom. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dal freddo e dal maltempo. In studio Roberta Pellegatta per un aggiornamento. Roberta. Sì, buongiorno. La neve è attesa abbondante in queste ore. Nel primo pomeriggio al centro-nord, ma il freddo stringe tutta l'Italia, con vento e mareggiate al sud. In Sicilia e sulle Madonie, per esempio, ci scesi sotto zero stanotte. Stessa cosa in Calabria, dove ha nevicato su buona parte dell'altopiano della Sila nelle ore notturne, con temperature che hanno raggiunto i 4 gradi sotto lo zero. Naturalmente temperature più rigide al nord, a Torino per esempio nella notte la colonnina ha toccato i meno 13. Freddo intenso anche in Veneto, dove le scuole di diversi comuni, tra cui Treviso e Caorle, sono rimaste chiuse oggi. In Trentino il gelo ha costretto i vigili del fuoco ad un super lavoro per allagamenti dovuti a tubazioni gelate e incendi causati dall'uso intenso degli impianti di riscaldamento. A Belluno addirittura il gelo ha provocato il blocco dell'energia elettrica in due reparti dell'ospedale, per cui i sanitari hanno dovuto trasferire 60 pazienti in altre strutture. E pensare che il peggioramento appunto deve ancora arrivare. Infatti la nevicata, quella vera, quella intensa, è attesa nel primo pomeriggio, come conferma al microfono di Anna Marino Filippo Thierry del Centro Funzionale Dipartimento Protezione Civile. Abbiamo attualmente una fase di sostanziale pausa, con temperature ancora molto fredde al nord in tutta la pianura padana, un nuovo peggioramento dal pomeriggio di oggi, nevicate ancora in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli e comparto anche Ligure, che insisteranno poi nella prossima nottata, si esauriranno nella giornata di domani per quanto riguarda la pianura padana centro-orientale, dove la neve si trasformerà gradualmente in pioggia, almeno alle quote più basse, mentre sulla parte più occidentale padana, quindi sul basso Piemonte e sull'Emilia, ancora la giornata di domani sarà segnata da neve in pianura anche fino a sera. Sul centro arriveranno precipitazioni diffuse a carattere soprattutto di pioggia, Toscana, Umbria, Lazio fino all'Alta Campania. Per la giornata di domani il tempo sarà perturbato. E dopo quelle pomeridiane, un'intensificazione delle nevicate attesa per la serata, soprattutto in Lombardia. A Milano si prevedono dai 20 ai 30 centimetri di neve, il comune in allerta con spazzaneve e spargisale, e da ieri sera nel capoluogo lombardo sono stati allestiti campi d'emergenza per i senza tetto. Alle 9 di sera gli uomini della Croce Rossa finiscono di allestire il tendone, una trentina di posti letto al caldo all'ingresso del cimitero monumentale nel nord di Milano. Il termometro segna meno 8 gradi centigradi e i volontari della comunità di Sant'Egidio decidono di andare in strada e avvisare senza dimora del rifugio appena preparato. Avendo saputo di questa iniziativa che permetteva di dare un posto caldo per la nottata con notti così rigide, allora abbiamo ritenuto opportuno un po' di fare da collegamento con persone che altrimenti non avrebbero potuto sapere di questa iniziativa, di questa opportunità. Alle 11 arrivano i primi ospiti. Sono quasi tutti stranieri, moltissimi cinesi. Loro non sanno e neanche vogliono parlare italiano. Prendono tè caldo e biscotti come un ragazzo marocchino, paonazzo dal freddo. Durante la notte non dormo, ma durante il giorno vado in biblioteca o vado in Epica, sala Epica, e dormo lì. Purtroppo anche le coperte non ce l'ho, sa cappello o qualcosa. Anche i volontariati ci sono pochi, soltanto questi che mi aiutano, non è tanto. Fra i tanti stranieri c'è anche Alessandro, clochard milanese, che fino a 3 anni fa aveva una vita diversa e ora si ritrova qui, nel tendone della Croce Rossa. Dormivo fuori, sì, perché riuscivo ancora a fare, adesso con 7 gradi sotto zero non ci riesci, perché nel senso, perché vai in giro con il sacco e bagnato, le coperte sono bagnate, non ci riesci più. Io stanotte ho dato letto a mezzanotte, alle 2:30 ero già sveglio con un freddo, alle 4:30 hanno aperto la stazione e mi sono buttato dentro. La notte scorre liscia, alle 7 del mattino i volontari chiudono il tendone e per il senza tetto comincia un'altra giornata al gelo. La prossima notte, giura la Croce Rossa, gli ospiti saranno molti di più. Marco Lignana, GR24, il sole 24 ore. E possiamo dire che sono rimaste senza tetto 600 persone ieri notte alla stazione Termini di Roma, costrette a trascorrere la nottata all'addiaccio a causa del ritardo e poi della soppressione del treno per Torino. E purtroppo ci sono da segnalare gravi disagi per chi viaggia in treno anche oggi. Tra due ore le Ferrovie dello Stato terranno una conferenza stampa, forse per annunciare riprogrammazioni e riduzioni di velocità, perché è evidente che la situazione non è sotto controllo. Dopo i 700 treni cancellati ieri, oggi ancora gravi ritardi, soprattutto dei convogli provenienti dal sud in stazione centrale a Milano, ma ad andare in tilt sono state soprattutto le tratte ferroviarie del nord-est, con decine di treni soppressi sulla linea Venezia-Trieste. E non va meglio Oltralpe, ancora bloccata la circolazione attraverso il tunnel della Manica. Sentiamo. Per il terzo giorno consecutivo tutti i treni che congiungono Londra, Parigi e Bruxelles sotto il tunnel della Manica sono stati cancellati. Cresce la tensione degli oltre 55.000 passeggeri che da venerdì scorso stanno cercando di ricongiungersi a familiari ed amici per le feste. In tre giorni, a causa del freddo e della neve, si sono rotti ben 6 treni e in oltre 2.000 hanno dovuto passare la notte sotto il tunnel della Manica prima che venisse chiuso sabato e domenica. This is an absolutely unprecedented event. Un evento assolutamente eccezionale, dicono dai vertici di Eurostar, che chiedono scusa. Eurostar, che da 15 anni opera sotto la Manica, sta ora implementando scudi protettivi per impedire che la neve arrivi ai circuiti elettrici dei treni. Per oggi previsti 3 test di prova senza passeggeri a bordo. Se andranno bene, la compagnia ha annunciato che il servizio potrebbe essere ripristinato domani. I passeggeri dovranno attendere fino a stasera per avere ulteriori informazioni, mentre il Natale è ormai alle porte. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E non solo disagi, il freddo purtroppo provoca anche vittime, come avete sentito nei titoli. In Polonia 42 persone sono morte per il freddo, in prevalenza erano senza tetto, e 4 vittime anche in Italia: un clochard a Milano, un anziano caduto in un dirupo in provincia di Ancona e 2 persone rimaste intossicate dalle stufette in Liguria. E per ora è tutto. Grazie a Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. Naturalmente vi terremo informati per tutta la giornata su quanto sta accadendo su strade, autostrade, aeroporti, porti, treni, e naturalmente se sarà necessario interromperemo anche la programmazione per darvi tutti gli aggiornamenti necessari. E chissà che freddo che avranno sentito i 4 operai della Yamaha di Lesmo, vicino Monza, che hanno trascorso la loro 5ª notte all'addiaccio sul tetto dello stabilimento che l'azienda ha intenzione di chiudere definitivamente. Abbiamo raggiunto al telefono questa mattina Paolo Mapelli, addetto alla linea di montaggio. Resistiamo, non c'è nessun problema. L'unico problema è il rivestirsi o potersi cambiare la mattina, perché le temperature sono molto basse, però la notte dentro in tenda la passiamo bene. Il resto del giorno logicamente si patisce il freddo, piedi, mani, però stiamo bene, sì, siamo determinati, noi abbiamo viveri qua per star su un mesetto circa. Quello che ci potrebbe far scendere da questo tetto è che non siano solamente parole da parte della direzione dell'azienda, come è sempre fatto fino adesso, ma che ci sia finalmente scritto qualcosa su carta. Allora si può pensare e si può scendere. Se sono solo parole, come sempre, mi spiace tanto, ma noi staremo su questo tetto. Non risparmia le battute il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione degli auguri di fine anno con i militari italiani impegnati all'estero, salutando l'unica donna in collegamento dai teatri operativi, in particolare in questo caso in Bosnia. Il Capo dello Stato ha commentato: mi dicono che sia l'unico comando dove è presente una donna, cercate di moltiplicarvi. Gli ha fatto eco con una battuta il Ministro della Difesa La Russa: servirebbe più caldo, Presidente, alludendo alle temperature polari nel paese balcanico e non solo. Poi il Capo dello Stato ha fatto riferimento al voto sul rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Sono particolarmente soddisfatto istituzionalmente di quello che è accaduto in Parlamento. Ha fatto molto bene il Ministro della Difesa qui a sottolinearlo, perché di solito l'immagine è sempre quella di un Parlamento diviso e di una politica rissosa. Il fatto che su questo grande impegno, su questa grande scelta che ha tante implicazioni, ha implicazioni di carattere politico, di carattere finanziario e di carattere umano, il Parlamento sia unito è motivo di grande conforto, io credo in egual misura per me e per voi. Cambiamo Cambiamo decisamente argomento, andiamo alla crisi della Juventus. Si terrà nel pomeriggio a Torino il consiglio d'amministrazione della società bianconera. All'ordine del giorno l'approvazione del ritorno di Roberto Bettega con la funzione di collegamento fra squadra e dirigenza e la discussione della posizione dell'allenatore Ferrara. Previsto anche un altro tema, la riduzione del budget dopo l'eliminazione della Champions League che ha causato la perdita di 4,5 milioni di ricavi e non sono noccioline. Per lo sci è iniziata la seconda manche dello slalom maschile in Alta Badia. Ci colleghiamo in diretta con Dario Puppo. Dario, come va? Sta entrando nel vivo la gara, sta scendendo il canadese Brad Spence, che probabilmente fa segnare, no, è terzo tempo, quindi resta davanti lo svedese Beck che si è segnalato in questi giorni nelle gare di Coppa Europa in Italia. I migliori devono ancora scendere, ricordiamo che ci sono in testa i tre austriaci dopo la prima manche. Qualche trappola anche nella tracciatura della seconda manche che è stata disegnata dall'allenatore dei canadesi. Gli azzurri sono in una buona posizione per tentare di avvicinare il podio, soprattutto Mölge che è a 9 decimi da il leader della prima manche che è Pranger, il campione del mondo della Val d'Isère. Bene anche Razzoli che però dovrà cambiare marcia in questa seconda manche, lui è uno da recuperi, quindi c'è chance per un altro podio in questo momento davvero felice per lo sci azzurro. Grazie Dario Puppo, dunque ci risentiremo nei prossimi GR24 per sapere come sarà andata a finire. Nella prima parte di GR24 abbiamo dedicato largo spazio al maltempo, al freddo e al gelo che sta interessando l'Italia, ma non solo, l'abbiamo sentito anche poco fa nell'appuntamento con la viabilità. L'Italia si prepara dunque alla grande nevicata che in realtà è già cominciata in qualche punto del nostro paese, al momento disagi soprattutto per il traffico ferroviario, non va meglio nel resto d'Europa, pensate che in Polonia si registrano 42 morti per il freddo. Largo spazio poi nella prima parte di GR24 alla pagina sportiva, la Coppa del Mondo di sci in Alta Badia, gli azzurri infatti cercano il bis nello slalom e poi abbiamo parlato anche di calcio e della crisi Juventus. Ripartiamo invece dalla pagina dedicata agli esteri all'Iran, dove si sono tenuti i funerali dell'ayatollah dissidente Montazeri. Il grande Ayatollah Montazeri è stato sepolto nel mausoleo di Massoumezzara nella città santa di Qom. L'occasione è diventata pretesto per contestare il governo e la macchina della repressione si è messa subito in moto. Le milizie di Ansar e Hezbollah si sono infiltrate nella folla, hanno tentato di interrompere la cerimonia causando tafferugli. Ahmad Kabel, un religioso allievo di Montazeri, è stato arrestato mentre era in viaggio da Mashhad a Qom per partecipare ai funerali. In manette anche gli attivisti Mahnaz Mohammadi e Kuyar Kabel e il giornalista Nourizad. Il leader del Movimento Verde Mousavi si è recato ai funerali a cui dovrebbe aver partecipato anche Karroubi, l'altro leader dell'opposizione, mentre non è chiaro se ci sono andati Rafsanjani e l'ex presidente Khatami. Terminate le esequie, l'opposizione avrà altre due occasioni per protestare. Il 27 dicembre per Ashura, con cui gli sciiti ricordano il massacro di Hossein a Kerbela, e 40 giorni dopo la morte del grande Ayatollah. Farian Sabai, GR24, Il Sole 24 Ore. Ritrovata la scritta rubata dall'ex lager nazista di Auschwitz venerdì scorso, il lavoro rende liberi. Forse è stato compiuto su richiesta di un collezionista il furto profanazione duramente condannato in tutto il mondo della famigerata scritta in metallo, il lavoro rende liberi, ritrovata stanotte dalla polizia polacca dopo essere stata rubata 3 giorni fa dal cancello del lager di Auschwitz. Lo ritiene l'emittente polacca RMF, secondo la quale la scritta potrebbe essere stata ordinata attraverso su internet. Secondo la stessa fonte, i 5 ladri, arrestati questa notte dalla polizia, si sono mossi con la speranza di vendere bene il bottino al collezionista e non hanno nulla a che fare con i neonazisti, come aveva affermato in precedenza anche la polizia polacca, che ha parlato di pregiudicati, condannati per altri reati, sia per furto sia per aggressione. Poiché si è presentato il problema di nascondere l'insegna originale, secondo la radio, i ladri hanno diviso il pannello in ferro battuto lungo 5 metri in 3 parti. I 5 uomini di età compresa fra i 20 e i 39 anni, che al momento dell'arresto si trovavano in un'abitazione privata nel nord del paese, rischiano una pena fino a 10 anni di prigione. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore. Due giorni fa il riconoscimento delle virtù eroiche di Pio XII e il conseguente riaccendersi del dibattito sulla sua beatificazione, fortemente criticata dal mondo ebraico. Poco fa, nel suo discorso alla Curia Romana, in occasione degli auguri di Natale, Benedetto XVI ha parlato della sua recente visita allo Yad Vashem, memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme. La visita a Yad Vashem ha significato un incontro sconvolgente con la crudeltà della colpa umana, con l'odio di un'ideologia accecata che senza alcuna giustificazione ha consegnato milioni di persone umane alla morte e che con ciò, in ultima analisi, ha voluto cacciare dal mondo anche Dio, il Dio di Abramo, di Esacco e di Giacobbe e il Dio di Gesù Cristo. Così questo in primo luogo un monumento commemorativo contro l'odio, un richiamo accurato alla purificazione e al perdono e all'amore. 40 anni fa Fabrizio De André decideva di parlare di Gesù. Lo faceva con l'album La Buona Novella, nel quale ripercorreva la storia della Sacra Famiglia attraverso i Vangeli apocrifi. Rilegge ora quel disco, il volume I Vangeli di Fabrizio De André di Riccardo Storti. Sentiamo l'autore al microfono di Marta Cagnola. È una visione laica, Gesù in quanto uomo. Se vogliamo, addirittura ecumenica, ma ecumenica che va oltre, ben oltre, diciamo, la fede, proprio perché è un Gesù Cristo nel quale ci si può riconoscere sia al credente sia all'agnostico. Tutte le implicazioni di carattere teologico, giustamente Fabrizio De André lo dice testualmente, dice: ma questi sono, il resto riguarda i teologi, riguarda i filosofi, io sono semplicemente un cantautore, ho voluto raccontare la storia di un uomo, fantastico, ma pur sempre di un uomo. Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Dopo tutto questo lavoro che hai fatto su Fabrizio De André, che opinione ti sei fatto sulla sua spiritualità? Il bello di Fabrizio De André è quello che possiamo trovare nella frase di Don Gallo, no? Che ho citato, che ti fa venire il dubbio che Dio esista, ti fa rimettere anche in marcia, soprattutto anche il non credente, si trova in una situazione in cui comincia a riflettere, a ragionare e ha quasi voglia di rimettersi alla ricerca di questa spiritualità, un po' come ha fatto Faber. Però è molto bella questa espressione pubblica invece di Fabrizio De André, che vuole raccontare ma non vuole insegnare nulla, vuole solo proporre un'opera che ancora oggi è attualissima per i temi, che sono temi che comunque non sono solo temi spirituali. E qui di spirituale non c'è proprio nulla, parliamo infatti di finanziaria, stasera il testo in Senato, il via libera finale domani. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Rush finale dunque a Palazzo Madama per la manovra economica del 2010, il testo in queste ore in Commissione Bilancio, dove si stanno illustrando i relativi emendamenti che saranno votati nel primo pomeriggio. L'intera finanziaria è attesa quindi in aula sempre al Senato a partire dalle 18.30, mentre alle 19 scade il termine per presentare gli emendamenti sempre in aula. È pressoché impossibile però che passino delle proposte di modifica, vorrebbe dire un ulteriore passaggio parlamentare alla Camera. Governo e maggioranza invece puntano a chiudere la partita entro domani e a convertire così il testo in legge. Non è escluso che l'esecutivo ponga anche a Palazzo Madama la fiducia. Sui contenuti ricordiamo che si tratta di una manovra che mette in campo risorse per circa 9 miliardi di euro e che va dal rinnovo del patto per la salute alla Banca del Sud, dalla possibilità di vendere i beni confiscati alla mafia a nuovi fondi per le carceri, dalla riduzione dell'acconto IRPEF al bonus ricerca. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Costi della democrazia, è giusto finanziare i partiti con soldi pubblici? Era il tema del nostro sondaggio di oggi, sentiamo come avete votato. Per alcuni partiti le ultime elezioni del 2008 sono equivalse a un bel 6 al Superenalotto, come per la Lega, che ha speso in campagna elettorale 3 milioni e mezzo di euro e ne ha incassati sotto forma di rimborsi quasi 38 di milioni, un ritorno del 218%. Ma in generale per tutti i movimenti politici le elezioni sono un affare, come ha certificato la Corte dei Conti. Mediamente i partiti hanno speso un euro in campagna elettorale e ne hanno avuti di ritorno il quadruplo. Ma questo finanziamento pubblico ai partiti andrebbe, secondo voi, abolito? Ebbene, l'83% di voi ha detto di sì, cancelliamolo. Controcorrente, un politico di lungo corso, Paolo Cirino Pomicino. È ovvio che se voi fate il ragionamento, come fa la Corte dei Conti, che in realtà si spende un euro e se ne incassano quattro, questo ha i fini elettorali. Però non c'è dubbio che anche fuori dalle elezioni i partiti vivono e hanno bisogno di risorse necessarie per continuare a finanziare, anche quando non c'è le elezioni, tutta l'attività politica. Senza questo finanziamento, a questo punto ci deve fare la politica in Italia? Quelli che sono ricchi. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora la pagina di cronaca che ci porta in Campania. Avevano fatto saltare con la dinamite il locale di un panettiere di Ercolano in provincia di Napoli lo scorso 10 novembre. Per questo ed altri attentati, nonché per una miriade di estorsioni consumate ai danni di imprenditori edili e commercianti del posto, 22 persone ritenute affiliate ai clan camorristici Ascione Papale e Birra Iacomino sono state arrestate nel corso della notte in un blitz dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Tutte sono ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione illegale di materiale esplodente e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i militari dell'arma hanno individuato gli autori di ben 14 episodi estorsivi ai danni di 6 imprenditori compiuti tra ottobre e novembre e dell'attentato dinamitardo nei confronti del panettiere punito per non aver voluto pagare il pizzo. E tutto, fatto di non poco conto, è partito questa volta dalle denunce delle vittime. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. La famiglia di Meredith Kercher chiede giustizia e quindi di riconoscere la colpevolezza di Rudy Ghedè. L'avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari della studentessa inglese uccisa a Perugia, ha cominciato così la sua arringa nel processo d'appello all'Ivoriano ripreso stamani a Perugia. In primo grado Ghedè era stato condannato a 30 anni. Questo invece succede ad Alzano Lombardo nel Bergamasco. La giunta leghista approva una serie di agevolazioni che vanno dagli sgravi fiscali a nuovi parcheggi gratuiti. Aiuti destinati alle giovani famiglie ma non ad immigrati e coppie di fatto. Per qualcuno si tratta di una discriminazione. Non la pensa così invece il sindaco di Alzano, Roberto Anelli. Sentiamolo al microfono di Andrea Viali. Noi volevamo solo portare, e vogliamo anzi solo portare, i residenti di Alzano Lombardo a ripopolare il centro storico. Quindi non c'è nessuna problema con gli stranieri. Gli stranieri hanno già nel comune di Alzano Lombardo una serie di agevolazioni, ovviamente gli stranieri che abbiano un reddito ISEE inferiore a quello prestabilito per legge, c'è il bonus per gli affitti onerosi, c'è il bonus del metano, c'è il bonus dell'energia elettrica e via dicendo. Per cui non è un'esclusione a priori e non è stata nemmeno voluta. Oltre che gli stranieri, da queste agevolazioni avete deciso di escludere anche le coppie di fatto, come mai? Il discorso è che noi volevamo dare un taglio ben preciso a chi ovviamente si sposa e quindi a questo punto a chi si sposa o in chiesa o a chi si sposa anche in comune, e serve anche per un maggior controllo effettivamente di questi incentivi, perché se no sai che le coppie di fatto magari mi dicono che sono coppie di fatto, ma in effetti magari spesso e volentieri non risulta questo. I lavoratori della scuola precaria che hanno lavorato l'anno scorso ma non hanno ottenuto un nuovo incarico per l'anno 2009-2010 potranno, firmando un contratto di disponibilità, ottenere un'indennità di disoccupazione per un massimo di 8 mesi, 12 se sono ultra cinquantenni, da alternare alle eventuali supplenze brevi che si dovessero presentare. È quanto emerge dalla circolare pubblicata oggi dall'INPS, che definisce gli aspetti operativi del decreto del 134 del 2009 e della convenzione sulla materia fra MIUR, INPS e Ministero del Lavoro. Restiamo in tema, ma parliamo di università. Quali sono gli atenei più cari? Venezia e Milano guidano la classifica, come spiega un'indagine pubblicata oggi su Sole 24 Ore. Lo UAV di Venezia chiede in media ai propri studenti 1.772 euro all'anno di tasse e il Politecnico di Milano 1.396. Si tratta delle università più care dal punto di vista dei contributi universitari, che al sud rimangono invece a livelli bassissimi, fino al record del Politecnico di Bari con 317 euro l'anno. A spiegare il primato di Milano e Venezia sono le caratteristiche dell'offerta formativa dei due atenei e gli alti servizi offerti agli studenti, ma il tema delle tasse si appresta a dominare tutto il dibattito universitario. Oggi la richiesta delle università aumenta in media di quasi il 6% l'anno, ma i tagli previsti per i fondi statali potrebbero imprimere un'accelerazione forte. Già oggi 27 atenei statali su 71 hanno superato i limiti di legge che impongono ai contributi degli studenti di non superare il 20% dei fondi statali. Ma 24 università hanno i conti in netta crisi e l'aumento delle tasse rischia di essere l'unica contromisura. Gianni Trovati, GR24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo in bellezza, parliamo di Natale, in particolare parliamo di tombola, perché quest'anno la tombola si giocherà soprattutto su internet. Addio cece e bottoni per coprire le caselle dei numeri estratti. La vecchia caratombola già da questo Natale potrebbe restare negli armadi e lasciare il posto al bingo online. Nella manciata di ore che ci separa dalla vigilia, i monopoli stanno tentando il tutto per tutto per lanciare la possibilità di giocare via internet. I numeri diventeranno virtuali, si materializzeranno sullo schermo di un personal computer. Non si griderà tombola, ma bingo, con una finestra di chat sempre aperta per condividere emozioni. Tanti saluti allora alla suocera prepotente e distratto, al cognato che strapara perché ha alzato un po' il gomito. Nel bingo contano riflessi e velocità, solo così è garantita la vincita. Il gioco via internet non è più uno sconosciuto degli italiani e lo sarà ancora meno se a Natale debutterà davvero il bingo online. Le condizioni per il grande salto ci sono tutte, basti pensare al successo che sta riscuotendo il poker online, come riporta il Sole 24 Ore di oggi in edicola. All'orizzonte termini nuovi e regole nuove che sembrano un po' contraddire abitudini e vecchi detti popolari, perché se è vero che Pasqua si passa con chi vuoi, Natale è d'obbligo con i tuoi e chissà se basterà solo una chat. Marco Mobili, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultimo servizio di questo GR24 in cui abbiamo dedicato ampio spazio alla pagina dedicata alla grande nevicata che verrà, perché pare davvero che stia per arrivare su tutto il centro nord. Al momento si registrano ritardi soprattutto per il traffico ferroviario, ma anche per quello aereo. Si leggo adesso dalle agenzie ritardi e cancellazioni di voli all'aeroporto di Fiumicino. Non va meglio nel resto d'Europa, 42 morti per il freddo nel fine settimana in Polonia. Abbiamo poi parlato di Iran, con i disordini, gli scontri e funerali dell'ayatollah dissidente Montazeri, e poi abbiamo parlato del cartello, ricorderete, rubato ad Auschwitz. Il lavoro rende liberi, per fortuna è stato ritrovato, pare che non c'entri nulla il neonazismo. E il Papa che si dice sconvolto per la visita al memoriale sull'olocausto dello Yad Vashem. Quindi pagina sportiva con la Coppa del Mondo di sci in Alta Badia, dove gli azzurri cercano il bis nello slalom. Noi ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.